migliore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera cari radioascoltatori, sono le 21, lunedì sera siamo con voi con una nuova puntata di Colori dell'Anima. Stasera con me c'è Donatella e una cara ospite, parleremo dell'anno europeo, dell'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. Torniamo da voi dopo questa prima canzone. Josephine, Chris Rea, sulle onde 101. Punto 9, Radio Alma. E buonasera a tutti, eccoci questa sera a Radio Alma, i colori dell'anima. E questa sera appunto siamo in compagnia di Roland che è in regia. E prima di cominciare ricordiamo a tutti che potete chiamarci durante la trasmissione allo 02 345 2656, e non dimenticate che potete anche scriverci all'indirizzo email icolovidellanima@radioalma.eu. Donatella, di che cosa parliamo stasera? Questa sera parliamo di un tema molto d'attualità, un tema che ha suscitato molto interesse e è veramente al centro dell'attenzione negli ultimi giorni. Infatti parliamo di quello che è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Ecco, e per farlo ovviamente avevamo bisogno di un po' di expertise e per fortuna non siamo soli, ma siamo in compagnia di Alice Sinigaglia dell'Age Platform. Buonasera Alice. Buonasera. Sì, questa sera con noi uno special guest. Abbiamo la fortuna di avere con noi qualcuno che appunto venendo dall'Age Platform, sicuramente di età, di invecchiamento e probabilmente anche di solidarietà tra generazioni se ne intende. E quindi trascorreremo appunto un'ora insieme cercando con lei di capire un po' meglio quali sono gli obiettivi di questo 2012 improntato su questo tema, quali sono appunto i punti più caldi e quali sono anche i problemi da affrontare. Direi che forse innanzitutto bisognerebbe capire che cos'è l'Age Platform prima di tutto, ecco. Sì, Age Platform Europe è un network di più o meno 160 organizzazioni di persone anziane o per le, che offrono servizi alle persone anziane provenienti dai vari paesi europei, e ha il compito di rappresentare gli interessi delle persone anziane presso le istituzioni europee e anche di valorizzare qual è il contributo degli anziani nella società. Da diversi anni Age sta lavorando in una campagna che promuove l'invecchiamento attivo e anche la solidarietà fra le generazioni, perché si considera che si vogliono vedere i lati positivi dell'invecchiamento e come si possono trovare delle soluzioni sostenibili anche per le altre generazioni. Quindi diciamo che il tema dell'invecchiamento attivo e in generale il tema dell'invecchiamento non è poi un tema così nuovo per voi che lavorate appunto alla Age Platform già da tempo, se capisco bene. Sì, sì, la piattaforma è nata nel 2001, quindi è già da 10 anni che è stata istituita questa piattaforma, che aveva proprio il compito di parlare con una voce unica per rappresentare appunto gli interessi degli anziani in varie aree politiche, come quello delle pensioni, con quello dell'accessibilità ai trasporti, alle nuove tecnologie, come l'inclusione sociale, eccetera. Fantastico, io mi immagino il vecchietto del mio paese in Italia che è ignaro di tutto, che sta al club del paesello a farsi la sua partita di carte e che non sa che in realtà c'è qualcuno come Alice che a Bruxelles lo rappresenta. Come hai detto tu Donatella, il vecchietto del tuo paese che magari sta al basso giocando, una persona sana, molto attiva, con molta esperienza, insomma un gran valore per la società, bisogna sicuramente dirci. Insomma, qual è, puoi raccontarci magari qualche esempio del vostro lavoro, insomma di come, o qualche esempio di invecchiamento attivo, ecco, che è ovviamente il termine che si usa più spesso, cioè che cos'è per voi? Beh, noi appunto il nostro obiettivo è quello di promuovere l'invecchiamento attivo e quando parliamo di invecchiamento attivo ci riferiamo a una definizione che è stata data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera l'invecchiamento attivo un processo di ottimizzazione delle varie opportunità di salute, di partecipazione e di protezione per le persone man mano che invecchiano. Quindi abbiamo un approccio abbastanza olistico nei confronti dell'invecchiamento, che vuole quindi promuovere l'invecchiamento in buona salute, sia mentale che fisica, e la partecipazione in tutte le varie forme di espressione sociale per le persone anziane. Ok, ok. E ovviamente purtroppo invecchiando, insomma, diciamo che visto che c'è una porzione sempre più considerevole, insomma, della nostra società che arriva a una certa età, si incontrano anche dei problemi, suppongo, e vi muovete anche su questo fronte. Sì, purtroppo l'invecchiamento è spesso visto come più come un problema che e spesso si sottovaluta il contributo degli anziani alla società, ed è per questo che Age da diversi anni sta lavorando con altre organizzazioni, come anche l'organizzazione che rappresenta i giovani, l'organizzazione che rappresenta bambini, le donne, eccetera, per cambiare un po' questo atteggiamento nei confronti dell'invecchiamento e promuovere soluzioni positive e soluzioni che possano essere sostenibili per tutte le generazioni in una società che sta invecchiando. Infatti spesso mi dicono non sei troppo giovane per occuparti di anziani, e infatti quello che stiamo cercando di fare è quello di appunto coinvolgere anche le altre fasce d'età nelle soluzioni che sono possibili per far fronte a questo invecchiamento della popolazione. Direi infatti che in questi scorci appunto ci hai dato già delle parole chiave, come innanzitutto il concetto di sostenibilità, che appunto sta ritornando sempre di più in vari campi, e sicuramente quello dell'invecchiamento è più ampiamente il tema appunto della protezione sociale, dell'inclusione sociale, è sicuramente un tema dove la sostenibilità diventa sempre più importante, e mi chiedo in qualche modo dove pensi che si possa veramente trovare uno spazio per la solidarietà intergenerazionale, perché mi chiedo appunto se c'è un nesso tra questa sostenibilità e appunto le varie generazioni che si susseguono. Sì. Noi pensiamo che promuovere la partecipazione attiva degli anziani e quindi prevenire la loro autonomia e indipendenza possa contribuire a rafforzare la solidarietà fra le generazioni, perché appunto facilita l'incontro e il confronto fra le varie generazioni e anche permette alle persone anziane di dare un contributo alla società, e aiutando anche come volontari o come assistenti familiari le altre generazioni. E infatti a proposito vorrei proprio citare una direttiva, un comunicato anzi del Consiglio dell'Unione Europea del 2 dicembre 2011, che appunto si intitolava l'invecchiamento come opportunità per il mercato del lavoro e per lo sviluppo di servizi sociali e di attività di comunità. Io appunto, dopo aver letto semplicemente il titolo, ho letto alcune cose, parole chiave, mi sono presa opportunità per il mercato del lavoro, mi sono detta in quale misura questo si rapporta al termine attivo, all'aggettivo attivo che è stato dato all'invecchiamento, e appunto lo sviluppo di servizi sociali e di attività di comunità. Cioè mi chiedo in quale misura l'anziano, che finora in qualche modo era stato visto un po' solo come l'oggetto in qualche modo del servizio sociale e quindi appunto dell'assistenza, può diventare attivo in questo processo. Mi chiedo, cioè, c'è uno spazio appunto per rapportarsi ai giovani nel mercato del lavoro? C'è forse uno spazio, i cosiddetti nonni in affitto? Ci sono probabilmente delle opportunità di lavoro che non sono state mai prese in considerazione? Sì, certo. Quello che Age cerca di fare è quello di promuovere infatti la partecipazione degli anziani nella progettazione delle varie politiche sociali, in modo da renderli attori e non solo fruitori dei servizi della comunità. E quindi questo è secondo noi il modo migliore per poi trovare delle soluzioni innovative al cambiamento demografico in corso. Ecco, abbiamo fatto insomma uno spunto iniziale, abbiamo cominciato questa puntata per bene, abbiamo introdotto l'argomento, torniamo dopo il prossimo brano a chiacchierare con Alice. Vi ricordo un attimino il nostro sito internet radioalma.eu, dove tra l'altro potete, quando non siete vicini ad una radio, ascoltare la radio anche dal vivo. Questa è una nuova funzione del nostro sito, e come sempre ovviamente le puntate appariscono anche in podcast per riascoltarci quando volete. E siamo tornati dopo Giorgia e Pino Daniele con questa canzone brevissima che ci ha quasi presi proprio un po' sorpresi. Preso di sorpresa. Ecco, ma siamo tornati da voi, sono le 21:20, i colori dell'anima, con me c'è Donatella, come sempre la conoscete bene, ovviamente anche Alice Sinigaglia dell'Age Platform, e perché parliamo dell'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni. Eh sì, come anticipato, questa sera abbiamo con noi questo special guest che ci sta aiutando a capirne di più sul tema dell'invecchiamento. Ma ci domandavamo in realtà quali sono poi gli obiettivi appunto di quest'anno europeo, come è nato, che cosa ha spinto, che cosa vi ha spinto a fare una campagna appunto per l'invecchiamento, e dici un po' insomma che cosa vi aspettate. Sì, Age ha cominciato una campagna per avere quest'anno europeo ancora nel 2007. La campagna è nata con lo Youth Forum, che rappresenta le associazioni dei giovani le associazioni in Europa, e la lobby delle donne, quindi un'altra associazione europea che rappresenta le donne, e appunto aveva con l'obiettivo di di pensare a quali sono gli aspetti, le risorse degli anziani, come gli anziani possono contribuire a trovare soluzioni sostenibili alla nostra società che sta invecchiando. Quindi comunque, cioè, ricordiamo che non è appunto un lavoro di pochi mesi, no. Come hai detto tu, nato dal 2007, è comunque uno sforzo che è stato portato avanti probabilmente da tante persone e per diversi anni. Sì, sì, è un lavoro che va avanti da diversi anni e che è partito come un lavoro di 3-4 organizzazioni europee, adesso più di 50 organizzazioni sono coinvolte, quindi comunque ha riscosso anche molto interesse nei vari network europei e anche in alcune autorità locali, che poi sono appunto gli attori che maggiormente implementano le politiche per gli anziani. Quindi questa campagna, che è nata nel 2007, aveva l'obiettivo, e ancora l'obiettivo, di promuovere una società per tutte le età, quindi una società che permette a tutte le fasce di età di partecipare e contribuire alla società. E l'anno ha quattro principali obiettivi. Uno è quello di promuovere l'invecchiamento attivo, diciamo, nel mercato del lavoro, quindi come aiutare gli ultra cinquantenni a rimanere nel mercato del lavoro, ad aggiornare le loro competenze, anche come trasferire quello che hanno appreso nell'arco della loro carriera professionale alle nuove generazioni. Il cosiddetto trasferimento di know-how, no? Sì, sì. Che quindi questo è un modo per promuovere sia la solidarietà intergenerazionale che l'invecchiamento attivo. Per questo, sono tre gli obiettivi dell'anno, e ognuno dei tre obiettivi ha lo scopo di rafforzare poi questa solidarietà fra le generazioni. Per quanto riguarda la promozione nel mercato del lavoro, il rafforzamento della della solidarietà avviene con il trasferimento di competenze dai giovani ai meno giovani, dagli lavoratori maturi alle persone che cominciano la loro carriera professionale. Quindi questo è il primo obiettivo. Poi c'è un secondo obiettivo, che è quello di promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale, come volontari, come assistenti familiari. E quindi non soltanto a giocare a bocce il sabato pomeriggio. Certo, sì, tutte le attività di volontariato, di supporto, ma anche se si pensa a tutti gli anziani che aiutano i figli a conciliare la loro vita professionale, familiare, eccetera. Quindi anche questo secondo obiettivo, promuovendo l'invecchiamento attivo, ha anche lo scopo di rafforzare i legami fra le generazioni e supportare. Anche un contributo, diciamo, all'economia informale. Sì, sì. Molto importante. No? Sì. Sì, diciamo i cosiddetti nonni che guardano, appunto, che fanno da babysitter, che possono aiutare a soccombere, appunto, in tutti quei piccoli servizi, in tutte quelle piccole commissioni che alle volte, appunto, sembrano difficili a cui far fronte, insomma. Ecco, ho detto una cosa difficile, non l'ho capita nemmeno io. E allora magari diciamo un attimo, anche ricordiamo i nostri ascoltatori che questa puntata, insomma, visto che c'è l'anno europeo su questo tema, che noi non è che parliamo dell'argomento solo stasera, poi lasciamo stare, no, faremo una serie di puntate su Radio Alma su questo tema, invitando persone di una certa età. Non so, tra l'altro, quale sia il termine più politicamente corretto per magari Alice, ma lo puoi dire tu dopo. Comunque, di invitarli qui in studio e raccontare le loro esperienze, perché poi, insomma, sono anche veramente una risorsa di conoscenza, di esperienza, e la loro prospettiva su certe questioni che per noi più giovani magari noi abbiamo una visione qualche volta anche troppo semplicistica delle cose, o comunque manchiamo un po' di un contesto che persone di una certa età, avendo vissuto su questo pianeta più di noi, possono darci. Sì, diciamo, e magari per questo vale anche la pena, Donatella, di andare a scoprire un pochettino in più su, insomma, diciamo, i dati su questo tema. Insomma, magari anche credo che volevi condividere con noi qualcosina su quello che la commissione dice su questo tema. Sì, direi che ci sono alcuni dati importanti, ma prima di andare a quello volevo, appunto, ritornare ancora un attimino, scusami, sul terzo obiettivo, appunto, dell'invecchiamento attivo, che Alice, appunto, ci stava raccontando. Sì, l'ultimo obiettivo è quello di prevenire la dipendenza degli anziani, e quindi promuovere l'invecchiamento in buona salute e l'autonomia degli anziani. Quindi questo è il terzo campo su cui l'anno si focalizza. Diciamo, tre obiettivi abbastanza ambiziosi, che però comunque suppongo che voi prevedete essere in qualche modo raggiungibili in un orizzonte temporaneo deciso, definito? Sì, noi siamo posti, noi abbiamo come obiettivo quello di raggiungere una Unione Europea per tutte le età entro il 2020, uh-huh. In modo da raggiungere quelli che sono gli obiettivi della strategia Europa 2020, di avere una crescita sostenibile, inclusiva, e quindi miriamo a raggiungere questi obiettivi, diciamo, nel lungo termine. Non vogliamo avere semplicemente un anno di sensibilizzazione sul tema, ma avere un anno che incoraggi i decisori politici e le altre parti interessate a mettere in atto iniziative nel lungo termine per promuovere una società per tutte le età. E infatti io appunto metterei un attimino l'accento proprio sul lungo termine, perché come anticipava prima Wuland, ci sono alcuni dati che sono stati appunto rilasciati dalla Commissione Europea in una comunicazione appunto della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo del 2009, una comunicazione che appunto si chiama "Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione Europea". E in una appunto delle sezioni rilevanti della comunicazione si fa notare che il costante aumento della speranza di vita e i continui afflussi di migranti in qualche modo manterranno quasi immutata la popolazione totale dell'Unione Europea, che però sarà negli anni, e guardiamo quindi all'orizzonte del 2060, sarà comunque nettamente più anziana. Quindi significa che più o meno in termini di popolazione i numeri non cambiano troppo, però la proporzione appunto degli anziani aumenterà. Infatti, sempre nella comunicazione si dice che l'Unione Europea passerà da un rapporto di 4 persone in età lavorativa, quindi tra i 15 e i 64 anni per ogni persona oltre 65 anni, ad un rapporto di solo 2 a 1, quindi 4 persone per una persona oltre 65 a 2 persone rispetto a una persona di 65. Quindi diciamo che il tasso in qualche modo si raddoppia, o meglio si dimezza. E il calo più considerevole dovrebbe registrarsi proprio nel periodo tra il 2015 e il 2035, in coincidenza con il raggiungimento dell'età della pensione dei figli dei cosiddetti baby boomers. E Wuland, che cosa ci dici su queste cifre? Sei scioccato? Ti vedi contornato solo da anziani? Ma direi di no, onestamente vedo sempre molte carrozzine in giro e è anche strano pensare, insomma, che la società stia invecchiando così tanto. Comunque sicuramente visivamente avrà un certo impatto, perché comunque le proporzioni cambiano e forse al giorno d'oggi noi non siamo abituati a vedere appunto tanti anziani in giro, e quindi dovremmo abituarci. Ma anche se sta cambiando un po' anche quello che noi, chi noi definiamo anziano. Esatto, perché è proprio lì che volevo arrivare. Sì. Io ti faccio subito un esempio pratico. Mio padre ha fatto 60 anni e io non gli posso dire che lui è anziano. Sì. Ci rimane male. Non so se è solo lui o se appunto mi puoi illuminare sulla definizione. Credo che ci sono molte persone oltre i 60 anni che rifiutano di accettare, diciamo, la carta che spesso si ha, no? La carta sì, oltre 55, 60, non so. Comunque conosco parecchie persone che rifiutano di questa carta, di partecipare, di far parte ufficialmente di questa categoria. Anche perché forse si è sempre associato l'invecchiamento a qualcosa di negativo. E, per esempio, abbiamo fatto una campagna, dovevamo organizzare un'esposizione di fotografie sugli anziani e volevamo accompagnare queste foto da alcune poesie sul contributo degli anziani alla società, ed è stato veramente difficile trovare delle poesie o delle espressioni artistiche che descrivessero in modo positivo il fatto di invecchiare. È anche vero che invecchiare non è più come invecchiare 10, cioè, sì, adesso si resta in buona salute molto più a lungo, e quindi non si è più a 65, non si è più anziani come lo si era 50 anni fa. Però ovviamente questo comporta tutto un cambiamento di attitudini e di convinzioni che sono presenti nelle nostre culture. Quindi diciamo che forse tra gli obiettivi informali di questo 2012 c'è anche quello appunto di far passare un messaggio positivo, nel senso di farlo accettare anche i cosiddetti vecchietti del club di bocce un'identità diversa, quindi anziano non più come termine negativo legato appunto ad una sfera in qualche modo dove tutto si blocca, no? Divento anziano, vado in pensione, smetto di lavorare, mi ammalo, non so, tutti i luoghi comuni, gli stereotipi che ci sono, per vedere un anziano che invece, come ci dicevi tu, è al centro di una nuova sfera, è al centro di tante attività diverse. Soprattutto perché una persona di 65 anni può benissimo ancora vivere per altri 30 anni o anche di più, e quindi sicuramente c'è un'altra vita che comincia, e l'obiettivo anche dell'anno è quello di come dar senso a questa nuova fase della vita e come cambiare anche le mentalità, creare una certa discontinuità culturale che permetta di far partecipare queste persone alla comunità e di far considerare e di valorizzare il loro contributo alla società. Eh sì, valorizzare è proprio un compito importante, e direi che ritorneremo proprio dopo il prossimo brano musicale a parlare insieme ad Alice e Ruland delle sfide dell'invecchiamento attivo e di come possiamo partecipare. Yusun Dur e Nene Cherry, 7 Seconds, sono le 1:37, siete su Radio Alma, 1.9, dove in compagnia di Alice e Donatella parliamo dell'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. Eh sì, questa sera appunto un tema molto attuale, un tema molto caldo, perché è un tema che tocca tante sensibilità diverse. Infatti Alice prima ci ha illustrato quali sono gli obiettivi principali di questo anno europeo 2012, e appunto ci dicevi che il terzo obiettivo dava appunto la promozione dell'autonomia, e in qualche modo mi dicevi la dipendenza, prevenire la dipendenza degli anziani, con quindi un beneficio anche per i sistemi di assistenza dei vari paesi europei. Eh sì, infatti appunto questo è proprio anche un po' legato al fatto che comunque con una percentuale di anziani che aumenta nella società, in qualche modo bisogna tener conto anche del fatto che c'è tutta una percentuale, tutta una fascia della popolazione che comunque esce dal mercato del lavoro e che quindi in qualche modo si poggia sulla spesa pubblica dello Stato più a lungo. E infatti nella comunicazione della Commissione del 2009 su come gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione Europea, si dice appunto che l'invecchiamento della popolazione determinerà un aumento della necessità di trasferimenti e di servizi pubblici ad esso legati. Alice, tu correggimi se vedi c'è qualcosa che va. L'impatto dell'invecchiamento sui bilanci dovrebbe essere debole in quasi tutti gli stati membri e comincerà a manifestarsi già nel corso dei prossimi 10 anni. A base delle politiche attuali, la spesa pubblica connessa all'invecchiamento dovrebbe aumentare in media nell'Unione Europea di circa 4 punti percentuali del PIL entro il 2060 e di più di 5 punti percentuali nell'area dell'euro, soprattutto appunto per quello che è legato a pensioni, servizi sanitari, assistenza a lungo termine. Quindi io mi chiedo, Alice, ci sono delle proposte concrete per far fronte a questo appunto problema, a questa prospettiva? Sì, quando ho iniziato l'intervista ho detto che c'è un nesso molto forte tra promozione dell'invecchiamento attivo e promozione della solidarietà. Il fatto che persone vengano messe nelle condizioni di rimanere autonome più a lungo può ridurre le spese di assistenza dei paesi a beneficio di tutte le generazioni. Infatti permettere anche alle persone, ai lavoratori maturi, di rimanere nel mondo del lavoro, non uscirne troppo presto, permette a più persone di contribuire in termini di tasse e quindi di ridurre la pressione fiscale per tutti i lavoratori. Quindi la promozione appunto dell'invecchiamento attivo permette di di far fronte alle sfide dell'invecchiamento della popolazione con delle soluzioni più eque e sostenibili. C'è il pregiudizio che le persone anziane stanno in un certo senso rubando i lavori alle persone più giovani, e gli studi stanno dimostrando che effettivamente è il contrario. Nei paesi in cui ci sono più anziani, cioè più anziani, più lavoratori maturi nel mercato del lavoro, ci sono anche più giovani nel mercato del lavoro, perché la pressione fiscale è più bassa e quindi anche costa meno, la manodopera costa meno e si includono più persone nel mercato lavoro. Certo, infatti mi viene appunto a proposito in mente il fatto, penso che già in alcuni paesi europei rispetto ad altri ci siano comunque delle formule diverse riguardo appunto proprio alla coesistenza all'interno delle stesse imprese di lavoratori più maturi e lavoratori più giovani. Infatti spesso, come tu dicevi, si dice non vanno in pensione, stanno, non si schiodano dalla poltrona e non permettono ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Tuttavia mi sembra dire che in alcuni paesi, ad esempio l'Olanda, i Paesi Bassi, ci sono delle formule diverse per i lavoratori più maturi. Da una parte appunto prevedono ad esempio di lavorare 5 giorni la settimana o 6 giorni la settimana, ad esempio 2 giorni la settimana, il che da una parte gli permette di restare attivi, di restare appunto di essere motivati, di restare positivi, come dicevi tu prima, in qualche modo aiuta la pressione fiscale e allo stesso tempo aiuta anche questo trasferimento di competenze con i più giovani. Sì, è una delle cose che promuoviamo, è anche quello che incoraggiamo gli Stati membri di fare, anche quello di muovere e di allenamento progressivo, che quindi possono permettere ai lavoratori più anziani di lavorare per meno ore e di passare in modo più graduale dal lavoro alla pensione, perché a volte è uno shock per molti lavoratori che da un giorno all'altro passano dal lavoro a tempo pieno alla pensione, e quindi il pensionamento graduale anche può essere una buona soluzione per permettere ai lavoratori di passare dal mondo del lavoro alla pensione. Eh sì, penso ad esempio al mondo accademico o più semplicemente al mondo delle scuole, dove spesso vediamo le maestre che o le appunto i professori dopo 30 anni di servizio, cioè il mitico professore, il mitico maestro di 60 anni che poverino non ce la fa più, curvo, ed è costretto a sopportarsi una classe, perché ormai la media delle classi si aggira intorno ai 30 studenti, e che invece potrebbe appunto collaborare con la scuola in maniera diversa. Infatti Age sta anche lavorando con l'associazione CSR Europe, che si occupa di responsabilità di impresa, e mi può sensibilizzare le imprese sul tema, quindi nuove forme anche di organizzazione del lavoro e di age management, come ne gestire la carriera professionale dei lavoratori, perché non è necessaria, una persona non deve necessariamente restare nella stessa posizione fino all'età di 65 anni, ma potrebbe per esempio a 45 anni cambiare tipo di attività o cioè, insomma, quello che cerca di fare è vedere con le imprese quali potrebbero essere anche nuove forme di organizzazione del lavoro che permettano alle persone di contribuire più a lungo nel mondo del lavoro, sa chiudere le porte a e di restare fuori. Infatti io penso che appunto proprio questo spunto sia di notevole importanza proprio nel quadro attuale, perché spesso, voglio dire, basta accendere la TV per rendersi conto che ormai è notizia di tutti i giorni i dipendenti di tantissime industrie, tantissime fabbriche che avevano un lavoro sicuro, il cosiddetto appunto lavoro a contratto indeterminato, hanno tirato su famiglia, si sono comprati la casa e ora intorno ai 45 anni o 50 anni la fabbrica chiude, si ritrovano per strada e è un problema sempre più attuale il fatto che non riescano ad essere inseriti altrove, perché per anni sono stati operai specializzati, quindi comunque con un profilo tecnico notevole, e non ci sono politiche di reinserimento, non ci sono magari politiche di formazione, quindi credo che quello che tu stavi dicendo vada proprio in questa direzione. Sì, anche la promozione dell'apprendimento permanente, della formazione permanente è un tema molto importante, cioè l'accesso alla formazione alle persone che appartengono a varie fasce di età è molto importante per mantenere l'occupabilità del lavoratore, che perché se l'occupazione viene a mancare, quello che conta è che la persona sia occupabile in un altro settore, quindi è importante investire nel lavoratore, investire nel lavoratore e permettere al lavoratore di riadattarsi alle nuove esigenze di mercato. Di essere attivo. Stiamo veramente, grazie ad Alice, imparando un sacco di cose nuove su questo tema. È un argomento veramente importante e, come vi abbiamo già detto prima, non sarà l'unica puntata dedicata a questo tema, ne parleremo anche nei prossimi mesi. E insomma, se avete da dirci qualcosa sull'argomento, se volete intervenire, lo potete fare via email, i colori dell'anima tutto attaccato, @radioalma.eu, e anche via telefono, Donatella, allo 02 345 26 56. Ora devo dire che un po' mi hai deluso, perché Dimmi. Su questa puntata sull'invecchiamento attivo tu mi hai messo Tiziano Ferro e io pensavo che mi arrivava la canzone alla mia età. Sarebbe stata troppo scontata, ecco. Ma non ci piacciono le cose scontate, ma io non lo so, dobbiamo aspettare la prossima puntata, appunto, della rubrica la su questo invecchiamento attivo, esatto, per goderci questa canzone. Ricordiamo appunto che stasera parliamo di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, che è appunto il tema dell'anno 2012 della Commissione Europea o dell'Unione Europea, e con noi, per correggermi appunto su tutti gli sbagli e sulle tutte le sciocchezze che dico, tutte le banalità, una persona invece che di banalità non ne dice assolutamente, preparata sull'argomento, con noi appunto dalla Edge Platform questa sera c'è Alice. Allora Alice, appunto parlavamo con te prima dell'invecchiamento e con Roland ci ponevamo tutta una serie di questioni, alcune ce le hai già risposte in maniera molto chiara, ce ne sono ancora altre che ci piacerebbe appunto investigare con te. Invecchiamento attivo, appunto anno 2012, è un progetto ambizioso, è un progetto che tocca tanti punti diversi. Ci chiedevamo appunto come si può partecipare, cioè a livello di istituzioni, a livello di privati, di singoli, che cosa c'è, che cosa si muove? Sì. Lo slogan della nostra campagna è: tutti hanno un ruolo da svolgere per la promozione dell'invecchiamento attivo, perché è appunto un tema che tocca vari settori e vari attori della società, quindi sia le autorità pubbliche, sia anche i media, sia anche le imprese, come abbiamo detto prima, un po' diciamo i cittadini stessi, quindi diciamo che per tutti c'è un ruolo da svolgere. Infatti è molto interessante anche il vostro progetto di fare questa serie di puntate per parlare di questo tema, che è spesso non molto trattato nei media, e quindi questo è già un contributo, è già un contributo, diciamo la verità, l'abbiamo fatta apposta, dai. Un bel 10. diciamo che l'obiettivo è quello di raccogliere tutte le iniziative dei vari attori in un sito unico, che è il sito dell'anno europeo 2012, che ha lo scopo di raccogliere tutte le varie iniziative che si svolgono in Europa per promuovere invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale. Quindi questo sito vuole essere un po' una piattaforma per creare contatti fra persone che si occupano degli stessi temi, per favorire lo scambio di buone pratiche fra soggetti che si occupano delle stesse politiche. Diciamo un sito per gli addetti ai lavori, si dice così? Sì, però può anche dare spunti ad altri su quello che si può fare per promuovere l'anno europeo. Quindi un modo di contribuire è quello di aggiungere le proprie iniziative su questo sito e quindi mettersi, diciamo, in contatto con le altre persone che partecipano all'anno. E il sito c'è già, è un sito in costruzione? È un sito che c'è già, quindi se si digita Europa 2012 è di solito il primo sito che figura, e quindi lì è disponibile anche nelle varie lingue dell'Unione Europea. E anche per tutti quegli italiani che dicono l'inglese o il francese non lo conosco. Sì, per esempio anche il Ministero Italiano della Famiglia ha creato proprio un sito in italiano per tutti coloro che non parlano inglese e che mira proprio alle iniziative che avranno luogo in Italia, quindi anche per coloro... Molti si è dato da fare, Quindi sì, anche loro possono partecipare. E, quindi sì, questi sono, si può partecipare aggiungendo le proprie iniziative sul sito e quello che si cerca di promuovere è la creazione di partnership a diversi attori per promuovere insieme l'invecchiamento attivo. E proprio appunto su queste partnership, mi sembrava di aver sentito che c'era qualcosa che si muoveva anche a livello di comuni? Sì, uno degli obiettivi della nostra campagna è quello di invitare la Commissione Europea a creare una convenzione di sindaci che si occupa sul tema dell'invecchiamento, del cambiamento demografico. Esiste già una convenzione sul tema del cambiamento climatico e vorremmo che lo stesso tipo di processo venisse messo in pratica su questo tema del cambiamento demografico. E direi allora che con quest'ultimo punto si chiude forse l'excursus su questa prima puntata sull'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. Con noi abbiamo avuto appunto, lo ripeto ancora una volta, Alice dalla piattaforma. Che ringraziamo tanto, perché senza di lei questo non sarebbe stato possibile. E ringraziamo anche l'Age Platform per avercela lasciata libera per questa serata. E vi raccomando, su radioalma.eu o radioalma.eu/icolori dell'anima troverete ovviamente fra qualche giorno questa puntata per riascoltarla, ma anche poi i vari indirizzi, il link al sito dell'Age Platform, quello dell'anno europeo, insomma tutto di quello di cui avete bisogno su radioalma.eu. E poi diciamo anche che per ritrovare tutti i concetti espressi appunto da Alice potete sempre fare riferimento appunto al sito della piattaforma. Sì. E poi proprio oggi abbiamo mandato all'agenzia di comunicazione il nostro leaflet su come partecipare all'anno europeo, che è stato tradotto in italiano e quindi sarà presto disponibile sul sito internet di Age, quindi lo potrete consultare. E te lo ricordi per caso l'indirizzo dell'Age Platform? Sì, il sito è www.age-platform.eu. Ecco, allora ora non avete proprio più nessuna scusa. Comunque la ritroverete anche sul nostro sito nel caso non avete notato tutto in tempo. Ringraziamo ancora Alice, noi siamo in chiusura, dobbiamo lasciarvi. La settimana prossima I Colori dell'Anima tornano senza Donatella e il sottoscritto Roland e noi ci sentiamo fra qualche settimana. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, a presto e ciao Alice. Grazie, ciao.